English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Da questo fine settimana vi portiamo al cinema con questo appuntamento di English 24. Abbiamo deciso di dedicarci a un film che esce in questo fine settimana nelle sale. Lo facciamo perché parliamo in inglese con i protagonisti, o meglio, con il regista e con la protagonista, così sentiamo come parlano del loro film proprio in lingua originale, come parlano Darren Aronofsky e Natalie Portman di questo Cigno Nero, questo film ambientato nel mondo della danza. Avevamo parlato con loro, avevamo sentito parlare Aronofsky e Natalie Portman nella scorsa mostra del cinema di Venezia, però non avevamo ancora dedicato una puntata a loro. Eccoli qua e cominciamo ad ascoltare il regista Darren Aronofsky, che ci ha spiegato com'è nata questa storia del Cigno Nero, questa storia ambientata nel mondo della danza classica. When I started to think about doing Black Swan after The Wrestler, I very much saw them very related to each other, because the more I looked at into the world of ballet, I actually started to see all these similarities to the world of wrestling. They both have these performers that use their bodies in sort of extremely intense physical ways, and their entire performance is based off of their physicality. And so I very much always connected them as kind of companion pieces, but of course each story has its own style and has its own narrative and its own cause. Effettivamente, passare dal wrestler alla ballerina classica può sembrare strano, eppure Darren Aronofsky ci spiega: ci ho pensato e ho pensato che c'erano delle similarità, c'erano delle somiglianze. Come mai? Sì, il bellissimo film, lo ricorderete, con Mickey Rourke, che in America chiamano Mickey Rourke spesso, e che aveva come protagonista questo wrestler un po' disfatto dal tempo, che però fisicamente era sicuramente molto provato e ancora in grado di dare grandi performance fisiche. E quindi lui dice: I very much saw them, quindi io molto li vedevo. In inglese si dice non li vedevo molto, non I saw them very much, but I very much saw them. Li vedevo molto related to each other, cioè uno in relazione all'altro, uno molto connessi uno con l'altro. E qui c'è un'espressione che è diversa dall'italiano, e sono quelle piccole differenze dove comunque ci si fa capire, anche se non si usa l'espressione corretta, però se la si usa correttamente c'è quella differenza tra sapere l'inglese e invece conoscerlo, maneggiarlo bene. È questo the more I looked. In italiano diciamo: più io guardavo al mondo del wrestler, più qualsiasi altra cosa. Invece in inglese letteralmente si dice il più io guardavo, quindi the more I looked into the world of ballet. E quindi più guardavo sostanzialmente questo mondo della danza classica, del ballet, perché lo dicono la francese, gli americani, più mi accorgevo di queste similarities to the world of wrestling. E poi parla proprio di queste similarities. Sì, sostanzialmente è appunto una questione fisica, quindi they have this extremely intense performance, quindi il ruolo del fisico. Sappiamo che è vero, sembra che sia tutto finto quando guardiamo il wrestling, in realtà non può essere tutto finto, comunque si danno delle gran botte, fanno dei gran voli, quindi che la performance sia based on their physicality, quindi basata sulla parte fisica, è indubbio, sia per un wrestler come Mickey Rourke che come una ballet dancer come Natalie Portman. Poi ovviamente ogni film ha le sue peculiarità, dice Aronofsky. Sì, dice, usa questo kind che abbiamo sentito, abbiamo imparato a conoscere, un intercalare, quindi kind of companion pieces, una sorta di pezzi che vanno insieme letteralmente, quindi come pezzi complementari. Però ovviamente ogni film has its own style, its own narrative, its own cause. Ogni film naturalmente è tutto un mondo a sé stante. E ogni disciplina ha un suo mondo di coloro che la praticano, di coloro che la vivono. E il mondo della danza è un mondo molto delicato. Quindi è stato chiesto al regista Darren Aronofsky cosa pensava di fronte al mondo della danza e se aveva paura della loro reazione. I'm terrified of the ballet backlash. Those dances are real dangerous, you know. It's a very insular world and they really have absolutely no interest in anything. Most of the time when you show up and you're like, hey, I'm going to make a movie about you guys, all the doors open up and you could go to the top of Notre Dame or find any location you want. But the ballet world was like, they just all shrugged and you know, didn't return calls and anything. And slowly through meeting Benjamin and a few other people, we got the stamp of approval that we were actually trying to do something cool. So they really let us into their world, and we tried to capture as much of that reality in a real documentary sense. E ha detto una cosa molto interessante Darren Aronofsky. Allora, di solito quando si fa un film su una categoria di persone, si annuncia: sto facendo un film su di voi, e le persone su cui si fa questo film sono tutte contente. Qui è successo qualcosa di molto diverso, ha detto Aronofsky. Tant'è che lui dice di essere terrified of the ballet backlash. Backlash è letteralmente la fiamma di ritorno, la frustata di ritorno, cioè la reazione, che ovviamente si aspetta come una reazione violenta, perché dice il mondo del ballet è un insular world, cioè è un mondo insulare, quindi è un'isola. E appunto quando lui dice you show up, to show up vuol dire arrivare e farsi vedere, arrivare e presentarsi, un phrasal verb, arrivare e presentare il proprio progetto nel suo caso, and go. To go è la traduzione gergale, perché nell'inglese scritto non lo useremo, di dire e fai, no? Come noi gergalmente diciamo al posto di e ti dico, cioè, e ti faccio, ecco, e faccio. Farò un film su di voi, I'm gonna make a movie about you guys, su di voi, e si scatenano reazioni entusiastiche. No, non con il ballet, they shrugged. To shrug vuol dire alzare le spalle, fare spallucce. Poi è successo qualcosa che ha cambiato la visione del mondo, grazie, insomma, Darren Aronofsky ha dovuto trovare un personaggio che potesse introdurlo in quel mondo. Certo, non è successo come quando dice in altri momenti, ti fanno addirittura, ti concedono di salire sul tetto di Notre Dame e ti aprono tutte le porte. No, però insomma li hanno lasciati un po' sbirciare, forse la sensazione che ci dà il regista è questa. Sì, gli ha dato questo, lui lo chiama stamp of approval, cioè letteralmente il francobollo, il timbro di approvazione, cioè con questo diremmo un biglietto da visita, ecco, con questo Benjamin che li ha poi introdotti, era evidentemente uno che aveva credibilità, e quindi they let us into their world, ci hanno lasciato entrare nel loro mondo, e poi noi abbiamo ricambiato, dice il regista, facendo vedere che volevamo capture as much of that reality as possible, quindi catturare l'essenza, la realtà del loro mondo, anche negli aspetti negativi, ma senza tradirlo. Ecco. Non ha fatto un vero e proprio documentario, però diciamo che la sensazione forse è un po' quella. Quello che volevano probabilmente era appunto di ritrovarsi in quello che nello spirito del film, e probabilmente questo è successo. Quindi all'inizio they didn't return calls, non rispondevano nemmeno alle chiamate, ai messaggi in segreteria. To return a call vuol dire questo, e invece poi probabilmente la collaborazione c'è stata. Non faremo del gossip sulla collaborazione, che nel caso dell'attrice è andata ben oltre la collaborazione professionale, perché diciamo che è nato anche un amore molto importante in questo film. Non entreremo nei dettagli, ma sentiamo proprio parlare Natalie Portman. Darren and I talked about the film for the first time in 2002, I think. So it was interesting to have that sort of gestation period to just sort of let it sit as an idea because he really had the whole story already back then, and so I was able to let that seep in. Physically I trained starting a year ahead of time, and then the 6 months prior to the film went into sort of hyper training, where I was doing 5 hours a day of both ballet and cross training with swimming, and then it was very extreme, and the mindset during the film was just extreme sort of discipline and focus and obsession, which was fantastic. I mean, a me piace molto questa voce così ruvida di Natalie Portman e questo spirito dell'attrice di stampo anglosassone, soprattutto americano. Noi leggiamo spesso di questi attori che entrano in una parte e la fanno diventare il centro, il fuoco della loro esistenza per un certo periodo, con allenamenti, con... Ma scopriamo che non è nato tutto in maniera molto rapida in realtà. Forse c'è appunto questo, non soltanto poi quando si entra nel vivo, che si fa il training, ma lei lo dice molto bene, c'è stato tutto un periodo di gestazione, letteralmente, siccome Natalie poi è rimasta incinta, forse non è casuale la scelta della parola, però lei dice Darren and I talked about the film in 2002, quindi nel 2002 ne hanno parlato, poi hanno iniziato 7-8 anni dopo, no, o 9 anni dopo a girarlo, quindi lo chiama sort of gestation period, quindi un periodo di gestazione in cui l'idea sort of sit in as an idea, quindi letteralmente è bella come immagine, l'idea si è seduta dentro di lei, nel suo cervello, nel suo cuore, e poi ha maturato, e finché poi si è sentita pronta, o Darren Aronofsky l'ha poi effettivamente chiamata e hanno iniziato. E lei ha iniziato anche con il lato fisico della preparazione, non da poco. Che tra l'altro Natalie Portman è, beh, sapete, cioè, tra l'altro comunque ha già poi è molto giovane, ma è fisicamente, insomma, non sembrerebbe quasi che non ne avrebbe avuto bisogno, invece si è sottoposta I started training a year ahead of time, quindi ha iniziato questo programma di allenamento, training naturalmente fisico, un anno prima di iniziare le riprese, e poi dopo, quando mancava poco tempo, è andata in un hyper training, cioè in un iper allenamento, perché poi dopo si è dovuto proprio, del resto il fisico delle ballerine è sicuramente un fisico dal punto di vista della tonicità che non si può costruire così dall'oggi al domani. E infatti non solo si è allenata ballando per appunto portare in scena le coreografie, faceva anche dell'altro. Quindi 5 ore al giorno, 5 hours a day, both ballet and, quindi sia, il nostro sia, both ballet and cross training, che è quel modo di allenarsi che spesso, tra l'altro, anche per chi va in palestra viene consigliato, cioè di fare tante cose alternandole, quindi swimming, poi probabilmente avrà fatto anche palestra, avrà fatto appunto ginnastica, stretching, però tutto, quindi un allenamento multiplo di tanti tipi diversi, e qui usa la parola, però l'esperienza le è piaciuta, discipline, focus, obsession, quindi su tutto sul fisico, proprio come la protagonista del film. Però conclude, è stato fantastico, è stato bellissimo, quindi Natalie Portman, anche forse, così, visto che il film le ha portato fortuna dal punto di vista della vita privata, ricorda questi mesi di iperallenamento come qualcosa di fantastico. Noi vi lasciamo al cinema, se volete andare a vedere Black Swan, cioè Il cigno nero di Darren Aronofsky con Natalie Portman. In odore di Oscar, tra l'altro. In odore di Oscar, scopriremo a breve. Il nostro tempo radiofonico però, ahinoi, è finito qua. Io devo ringraziare Fabio Cantadori in regia, ricordarvi che il nostro English 24 è sempre in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'appuntamento al prossimo English 24.